Ciao a tutte e ciao a tutti. Siamo qui con Luisa Vicinelli per parlare di matriarcato. E come coordinamenta è un argomento che abbiamo avvicinato, che ci ha interessato. Volevamo sapere un attimo e parlare un attimo con chi di il matriarcato ha avuto modo di studiarlo, di avvicinarsi, o comunque ha un'esperienza in questo senso. Quindi, ciao Luisa. Ciao. E allora, come prima cosa, vorremmo chiederti tu come sei arrivata al matriarcato? Io sono arrivata al matriarcato con la scoperta della spiritualità femminile, che praticamente è stata, diciamo, quello studio che è stato fatto sulla dea madre del Neolitico. È cominciato così. Cioè sullo scenario internazionale, e grazie a Maria Gimbutas, nonostante ci fossero stati degli studi americani, delle produzioni di film e di scritti su questa visione femminile della sacralità, più che della religione. Cioè, il movimento femminista, soprattutto americano, aveva già incominciato a osservare che cos'erano i modelli che ci venivano imposti, e avevano localizzato in un dio padre sulla narrazione, sulla carta asessuato, perché sì, si chiama padre, ma è una convenzione, un po' come il neutro maschile, però il dio di tutti è un'entità, e questo e quell'altro. E le femministe avevano invece sottolineato che intanto si chiama padre perché c'è un motivo, la cui religione ha determinate caratteristiche che servono al patriarcato, sono servite storicamente alla sottomissione della donna, alla caccia alle streghe, a tante cose, e avevano iniziato delle ricerche su una dea madre, anche perché erano gli anni in cui l'archeologia restituiva queste gran masse di statuette di donne che erano entrate nell'immaginario collettivo anche a partire dalla scuola, perché erano arrivate sui testi scolastici. Come Veneri, cioè era stato dato questo nome Venere, quindi già collegate l'amore in qualche maniera che rimandava qualcosa di eterosessuale, Tanto comunque per cambiare, ecco. riprendeva dentro il maschio. Oppure addirittura io mi ricordo che in un libro di testo, prima di entrare nell'argomento, erano addirittura. Raffiguravano l'immaginario pornografico dell'uomo primitivo, perché sì, erano, come dire, per i nostri gusti abbastanza fuori dal causare eccitazione in un maschio, però magari per i primitivi andavano bene, eccetera. Questo è durato poco, perché poi si è optato per la questione più funzionale della maternità, cioè sono grasse, sono abbondanti, perché comunque il destino femminile, che era importante all'epoca, era quello di riprodurre la specie, e quindi avevano queste caratteristiche. Da qui si arrivava alla conclusione che le dee madri rappresentavano anche l'immaginario dell'uomo, sempre maschio primitivo, che non sapeva bene cosa ci azzeccava lui con la riproduzione, quindi deificava una figura femminile che comunque gli dava la vita, permetteva alla vita di Certo. andare avanti. E negli anni in cui mi sono avvicinata io invece alla questione, erano già state rese note le ricerche della Gimbutas, c'era stata tutta un'altra lettura. E andando a ricercare, per chi era interessata all'epoca la cosa, era stato anche messo in dubbio che l'uomo primitivo dell'epoca delle dee madri non sapesse come si riproduceva la nostra specie, anche perché avevano un casino di tempo, una convivenza assidua con gli animali, e non era qualche mese di distanza tra le gestazioni che gli impediva di vedere che magari nelle capre era, non so, dopo quanto tempo, in un animale dopo tanto, era abbastanza improbabile che fosse una scoperta del, certo, che non ci fosse la consapevolezza che comunque la vita di nasce come in altre funzionava, maniere. Ecco. Più probabilmente era perché tutti i tipi di conoscenza di chi stava dando un avvio nel bene e nel male alla civiltà aveva una visione di tutte le cose che gli succedevano che non era la nostra, cioè non andava con la scientificità o la materialità, certo, della, certo, riproduzione, ma poi chi legge la Gimbutta, c'è la rigenerazione, tutti gli aspetti della vita incarnati nella madre buona, cattiva, perché poi queste idee erano tante, cioè non era un monoteismo teocratico, perché, certo, c'erano quelle della morte, quelle della rigenerazione, di tutti gli aspetti della vita, comunque veniva messo in rilievo che la cosa veniva percepita come femminile, cioè quasi un sodalizio tra la vita e il femminile, che un po' è rimasto ancora oggi e che è stato anche strumentalizzato. Ma questo non c'entra niente, cioè c'entra perché è stato l'input per avvicinarmi, perché comunque era un tema forte, perché comunque è un tema che volenti o nolenti, atei, credenti, cattolici, protestanti, eccetera, l'immaginario sacro, cioè quello che per te è importante, quello che deve essere rispettato, quelle informazioni che ti permettano di dare un senso alla vita e un ordine alle cose che fai, sono sempre comunque legati a questo immaginario del possibile, dell'origine di tutte queste cose. Quello che abbiamo notato, che ha avuto un gran successo, diverse cose che avevamo fatto, come la sottotitolatura del video che rendeva note queste ricerche, la pubblicazione, la ripubblicazione di altri testi che comunque vertevano sempre intorno alla Gimbutas, però immediatamente dopo ci è mancato il collegamento. Cioè, magari poi alla fine ci puoi dare il titolo, i testi, dei riferimenti, perché se qualcuno vuole andarlo a vedere, a leggere, ecco. Diciamo che tutta questa cosa ci ha portato alla domanda, sì, va bene, però cambiare un immaginario che può essere importante, però ci deve servire necessariamente a vedere in essi con le vite che facciamo, dove siamo messe e con tutto quel resto che ci interessa oggi e che oggi non viene letto in questa maniera archetipa, insomma. Per cui la domanda subito successiva è stata quella di dire sì, va bene, in una fase dell'umanità c'è stato un tentativo di spiegare le cose della vita che era verso il femminile, c'erano società che erano indirizzate verso il femminile e poi c'è stato il patriarcato, l'indirizzo al maschile, eccetera, ma noi cosa serve sapere questo? E soprattutto c'era anche il pericolo di quello che chiamo i danni della New Age, cioè che alla fine, oggi lo sappiamo, ci sono miriadi di persone che seguono varie religioni, varie discipline, varie idee in terra, eccetera, che occupano il tempo libero, cioè che sono funzionali a rigenerarsi per ricominciare la mattina dopo alle 8 a fare le stesse identiche cose che fai anche con, certo, tuo padre, insomma. È una via di fuga concessa. Sì, era una via di fuga concessa, entusiasmante, tutto quello che vuoi, che collettava molto, perché comunque qualcosa richiamava, ma ti lasciava poi con cosa ne facciamo di questo. E da lì è venuta la domanda successiva, ma allora con una visione così che era femminile, com'era l'organizzazione sociale, economica di queste società che avevano questa visione, erano uguali alla nostra, c'era la donna in casa con i bambini e l'uomo cacciatore che andava dietro ai mammut, cioè queste domandine qui che sono diventate pressanti. E da lì è partita la ricerca per vedere se qualcuna era andata avanti. E soprattutto andare a sondare quella rivisitazione dei miti, che ognuno se li rivisita come vuole, per vedere se c'erano dei segnali che ci facessero capire un po' com'era la società, com'era la società è stato l'inizio. Infatti ci siamo avvicinati agli studi matriarcali con il libro della Abendroth, della Eisler, da Eisler che immaginava e ha dato una costruzione di queste società partendo da vari documenti, e poi con la ricerca dell'AIDE, che invece ha avuto il pregio di mapparle, di vedere quelle che sono ancora esistenti e soprattutto andata avanti, diciamo, nel modello scientifico, che poi anche quello c'è da discutere, però nel mettere le permanenze, cioè in una società dove la moglie, quando muore il marito, deve andare sul rogo con lui, che è quella indiana, e nel paese vicino non succede, hanno la stessa religione, lo stesso sistema politico, oggi quella permanenza non c'è, per cui è andata a ricercare praticamente i luoghi dove poteva esserci stato, cosa aveva lasciato, cercando di ricavarne i principi. I principi sono arrivati soprattutto col lavoro dell'AIDE, perché lei aveva già 30 anni, li ha studiati, per cui quando è stato tradotto in italiano il libro abbiamo potuto dialogare con quelle che l'avevano letto in tedesco anni Anni prima prima. e incominciare a buttare giù. E da lì sono usciti i principi che regolano la società matriarcale in confronto a quelli che regolano la società patriarcale. E lì ci siamo anche, come dire, accorte che c'era una grande vicinanza tra il matriarcato e il femminismo, nel senso che i funzionamenti del patriarcato, dannosi non alle donne ma alla società, perché anche questo è un vantaggio degli studi matriarcali, perché non dappertutto, non sempre, però molto spesso la lotta delle donne sembra una lotta del genere femminile, che va tutto bene, però noi ci vessano. Invece gli studi matriarcali hanno, diciamo, spostato un attimo il tiro e dire noi siamo vessate dal genere maschile, però non essere più vessate non vuol dire che il patriarcato è un sistema che non ci porta alla distruzione del pianeta, per esempio, Certo. perché ci ha reso più chiari un po' quelli che Foucault chiama i circoli, gli spazi che libera il potere, cioè se ci liberano uno spazio, poi a noi vanno bene i principi che il patriarcato ha affermato, perché le donne, tra l'altro, storicamente sono sempre state famose per aver incominciato tutte le lotte contro il razzismo, contro la guerra, contro questo, che non sono lotte inerenti soltanto al loro gruppo oppresso, ma hanno sempre avuto un po' questa visione. E il matriarcato ti permette, gli studi di queste società matriarcali ti permette di capire che visione hanno della società le donne, o perlomeno noi cercavamo proprio quello, perché sì, libere, belle, tutto quello che ti pare con la nostra dea, però se potessimo adesso avere il potere nel senso di poterlo fare, come creare una società, dove andremmo a cambiare? Quali? Il denaro, l'economia, il commercio, la vendita, quale immaginario ti porta in una direzione, quale ti porta in un'altra. E chiaramente il fatto che si sia riuscito perlomeno a provare l'esistenza di ordini sociali diversi ci ha dato un gran aiuto, perché un discorso è ex novo, un esercizio di immaginazione. E invece, la notizia che è durata così per dei millenni in altre società non sarebbero applicabili, non ci sarebbe la tecnologia, si pone il problema, la tecnologia è neutra, è maschile, tutto quello che ti pare, però perlomeno ti dava dei sentieri, delle E ci ispirazioni. puoi fare un esempio di una società matriarcale, dell'organizzazione e del funzionamento di una società matriarcale che magari, non lo so, dico una cosa di cui non sono esperta, che magari può darsi che in certi posti esista ancora, non lo so, Beh, ti allora dico. intanto devo ringraziare la Francesca Rosati Freeman che ha studiato per penso più di un decennio i Moso che abitano in Cina, sulle montagne Solo una vicine. popolazione. È un'etnia che è rientrata nelle etnie protette che ci sono 50, credo, etnie, adesso io non sono espertissima, però etnie che non sono quella principale cinese Ah. e che si sono tutte assestate un po' come Fradolcino sulle montagne, cioè che Certo. arrivano gli imperialisti e te scappi. E queste sono assestate un po' in giro, hanno avuto storie diverse, evoluzioni diverse in territori molto vasti e molto isolati. I Moso sono rientrati in questa convenzione cinese che non li ammazzano più a vista come le gazzelle sotto un gruppo etnico più grande e li hanno presi in massa anche con caratteristiche diverse, però loro hanno veramente caratteristiche diverse. La società Moso, che comunque adesso è presa d'attacco in maniera esorbitante, è la società più rappresentativa. E praticamente le informazioni Rappresentativa di una del struttura matriar di una matriarcale. struttura matriarcale la più integra, più esplicativa possibile. Esatto. E sicuramente l'AIDE dà già i modelli per cui una società è matriarcale, che sono che ci deve essere la matrilocalità, la discendenza femminile e il potere economico in mano alle donne. E anche, diciamo, una certa gestione, come dire, delle venerazioni di famiglia perché sono organizzati così. Però, per esempio, nei Moso, c'è il sincretismo, con i buddhisti perché, Ah. diciamo che comunque una religione e una spiritualità hanno delle caratteristiche così diverse che possono convivere benissimo, perché la spiritualità femminile non prevede il potere, quindi tu lasci il potere di tutto quello quando hai tutto il resto. L'organizzazione parentale dei Moso è in clan matriarcali, il che vuol dire che il clan matriarcale discende da una matriarca che fonda il clan e che ha figli e figlie che si riproducono all'interno dello stesso clan, non abbandonano mai il clan, la casa in cui nascono. Le figlie all'età della pubertà, poi dopo, un po' prima, hanno cerimonie varie per cui viene a loro destinata una camera con un'entrata esterna alla casa e dormono da sole, cioè viene creata una privacy per le figlie femmine, mentre i maschi continuano a dormire nella camera comune dei maschi all'interno della casa del clan. I Moso non conoscono il padre come lo intendiamo noi, cioè loro sanno benissimo chi è. Chi è? Praticamente il clan è composto da, a quanto capito, da gruppi maschili che vivono collettivamente e invece alle femmine vengono riconosciuti spazi privilegiati. Ah, Privati, privati. privilegiati, Già esce, società sì. così, insomma, adesso non so Sì, cos'è no, un va bene, privilegio che privati. faccio fatica, però sono spazi privati, sono tutti. Quella è la famiglia, Base. la base, i legami di sangue sono quelle, cioè tu come individuo Moso hai un legame di sangue con tua madre. Ho capito. e hai un legame di sangue con i fratelli che quindi che vengono da quella madre. E questi figli, figlie femmine, figli maschi della figura matriarca, della matriarca che guida il clan, considerano loro cioè, famiglia. Sì, considerano loro famiglia questo clan, però i loro padri, tra virgolette, perdonami questo termine che magari non è consono, ecco, chi sono? Allora, cioè la matriarca come fa a avere questi figli? Cioè come funziona? Adesso te lo spiego. Quando la matriarca è stata nel passato una ragazza che ha ricevuto una camera di privacy. Lì ci sono delle feste tradizionali, perché comunque tutte le popolazioni matriarcali hanno grande cura all'armonia collettiva, che curano in tutti i modi, eccetera, che tra l'altro a cui hanno anche attaccato la ridistribuzione, perché è un altro punto molto importante, cioè economico, di cui magari parliamo dopo. Questa ragazza va a queste feste, vede qualcuno che le sta simpatico, incomincia i primi approcci, poi si vedono nella camera di lei, cioè lui la va a trovare di notte, non passa dalla casa di famiglia perché lui non è uno di famiglia, dorme lì e la mattina dopo torna a casa nel suo clan. Gli zii materni sono la figura, se proprio la figura paterna per i figli maschi, ma anche per le figlie femmine, cioè sono gli uomini della casa, con funzioni che anche lì c'è una divisione sessuale del lavoro, di attitudine non rigida come la nostra, non così. Però il fatto è che i figli non sono mai proprietà del padre. Il padre li conosce. Sì. Il padre ci gioca, perché tutto questo è inserito in contesti di clan che comunque, mantenendo dei legami molto fitti fra di loro nel villaggio e osservando... avendo un'economia che comunque non permette un dislivello economico di accumulo e di povertà, e poi anche società che non hanno come dire, fuori strada che girano per il villaggio, i bambini sono poi di tutto il villaggio. Una domanda, per esempio, se la ragazza rimane incinta, il figlio o la figlia della ragazza rimangono nel clan? Vanno nel clan, quando la casa diventa un po' stretta, perché sono in tanti, c'è anche da dire che le società matriarcali non devono mandare i figli né alla guerra né in fabbrica, per cui in tanti non saranno mai. Il figlio rimane lì, diventa il nipote di tutti quelli che sono della generazione in linea con la madre. Diventano i nipoti della donna, come sono tutti gli altri, e rimangono a vivere lì. Qualsiasi cosa succeda tra i suoi genitori biologici, i bambini non ne sono toccati, vivono sempre la stessa vita, con le stesse relazioni. La loro famiglia è questa famiglia allargata del clan. È questa famiglia allargata del clan che non cambia mai fino alla morte, cioè loro non hanno degli scossoni, ti trasferisci, la casa la prendo io, ma ti ammazzo tua madre. E come si configura un clan nuovo? Cioè come diventa una matriarca? Nei Moso mi sembra di ricordare, perché... questa storia clanica è stata rilevata in tante, cioè la discendenza in linea femminile, poi ci sono, a seconda delle condizioni economiche, climatiche, eccetera, che è la figlia maggiore o la figlia minore, e credo che per i Moso sia, sembra la maggiore, che sia per invece... c'è la minore in altre zone, ma che sono zone africane, e la matriarca sceglie la Dabu, che la Dabu è la matriarca, sceglie la prossima Dabu, che è la figlia con cui ha più affinità. Poi diciamo che dalla tradizione che è stata studiata, come è diventato oggi, ci sono stati dei cambiamenti sociali, per cui anche loro stanno cercando di tenere duro. Questa diventa... la Dabu quando muore la matriarca, quando non è più attiva la matriarca, e ha la responsabilità di tutti i membri del clan. Lei decide tutte le cose pratiche della vita, cioè chi deve fare questo, quell'altro. non è che lei decida, cioè, beh, è già molto impostata per gli affari suoi, però non è che possa venire lì un figlio e portarsi a casa la moglie, che sì, tra certo, l'altro non esiste. Possono essere a porta. No, non esiste, non, tra l'altro è difficilissimo perché è come se da noi un figlio si portasse a casa un padre, cioè c'è già il padre biologico che tutti consideriamo padre, certo, biologico, eccetera, e uno va fuori, trova un amico simpatico che ha 20 anni più di lui e dice: oh, questo è mio padre. Sì, no, è lo stesso, certo. Sì, sì, sì, cioè, è difficile che succeda fuori dimensione di fuori di testa. E il clan, la casa del clan, quando diventa insufficiente per condizioni particolari, perché sono in troppe, per troppe persone, si stacca una figlia, la più grande di solito, che va a costituire il un suo nuovo clan. Altro clan. Però sono movimenti molto lenti, perché le società matriarcali, cioè lì la donna ha la sua capacità riproduttiva proprio nelle sue mani, cioè non c'è nessuno che la obblighi a un rapporto che non, certo, vuole, per cui lei anche, come dire, nel prevenire le nascite, eccetera, certo, ha la libertà, non ha questo, certo, se lo regola lei e se lo regola in base a un'economia condivisa in questa famiglia. Certo. Per cui questa è la cosa più importante forse dei Moso. E economicamente una società matriarcale come impostata? Cioè l'economia. Sono di una economie società di sussistenza, cioè visto che diciamo tengono molto a un'armonia costante, a una collaborazione costante, a una gestione della vita sociale come farebbe una madre. E non avendo neanche individui che scalciano, perché sono tutti molto, come dire, molto accuditi nei loro ruoli, cioè non c'è, adesso non so neanche se sia vero o no, però da noi il figlio che ha avuto la mancanza d'amore da piccolo, che poi compensa col potere, sì, con la cosa, questi percorsi. Quindi diciamo che è molto meno difficile, cioè è molto meno importante accumulare e si va sulla sussistenza fondamentalmente. Quindi sono società agricole, d'allevamento, perché certe cose. Ma comunque stanziali? Stanziali, stanzialissime, sì, questi i Moso sono stanziali, ma penso che siano sempre stati stanziali, hanno un luogo di venerazione che è il lago, dove c'è la montagna che viene personificata come una dea che ha dei pellegrinaggi tutti gli anni, anche qui ci sono i film che ha fatto la Francesca Rosati Freeman, ha fatto un film sui Moso, ha scritto un libro sui Moso. E quindi sono proprio legati al territorio, perché la natura è una parte molto importante per la società matriarcale, nel senso che è importante per la spiritualità anche matriarcale, perché loro imparano dalla natura. Il fatto di venerare anche la madre, insomma, comunque di dare tanta importanza alla madre, perché è un po' come la natura, cioè che te senza non vivi. Ma c'è una, cioè per esempio, chiaramente io ti faccio delle domande, essendo inserita in un contesto sociale che ha determinate caratteristiche, magari sono a sproposito, però no, prendile ma per quelle. Servono, che non ci ho pensato così a prima testa. Prendile per quello che sono. Quindi ogni clan ha un nome, cioè la madre, la Dabu, quella che tu, è portatrice di un nome che dà agli appartenenti a quel clan? Sai che questo non lo so, cioè è una cosa di cui non mi sono mai interessata, perché non ha neanche cioè, sì, anche noi no, abbiamo i cognomi da poco quando c'è stato, sì, l'anagrafe. Sì, sì, sì. Non lo so se adesso. Ma il riconoscimento comunque è matrilineare. Il riconoscimento è quello certo, cioè di madre certa, nasci lì, vivi lì, non c'è altro riconoscimento, non ci sono interferenze. Cioè il riconoscimento avviene attraverso la madre, nel senso, sì, che il riferimento per il riconoscimento è quella da cui tu sei nata o nato. Da cui tu sei nata o nato, sì, sì. Ecco. Nasci in quella casa lì, quindi sei di quella famiglia lì. Non, le società matriarcali non sono rigide, nel senso che fatti che succedono in una famiglia, che ci sono molti maschi, mettiamo, e quindi viene messa in dubbio l'accudimento, ma non l'accudimento dei bambini, perché li accudiscono anche gli uomini, perché sono i Certo. loro nipoti Sì. e non hanno ruoli, non hanno Certo. niente, per cui non dovrebbero accudirli. Anche il padre ci gioca un casino con i figli, perché li vede in giro, sa che sono, cioè, troppo, però no, non ha diritti, ecco, il padre su quel bambino, neanche se li sente d'avere, ma non è che lo detesti, insomma, comunque non è il figlio un mezzo per ricattare la madre o per arrivare alla madre, no? Non è che mettendo incinta una donna tu hai poi anche la donna, Certo. come succedeva da Sì, noi sì, un sì, sì. tempo. Per cui Diciamo una cosa, che dal punto di vista, così appunto perché c'è chi l'ha studiato, questo tipo di società, esiste una componente violenta nei rapporti maschi-femmina o no? No, No. la componente, cioè, allora, c'è da dire che la Cina ha fatto un grosso attacco a Etnia. questa etnia. Infatti, sono usciti articoli in tutto anche l'Occidente, il Perché è mondo delle donne, c'è fuori. anche già il sito porno sulle Moso, Mamma mia, perché? No, veramente? ti giuro che c'ho anche scritto. Perché il paese delle donne, cioè buttati così. Praticamente perché sono molto lontani dalla nostra No, perché hanno una organizzazione libertà sociale. perché è stata pubblicizzata la libertà sessuale delle Che è Moso, l'unica cosa che una che può società come attirare la nostra. Sì, certo. i maiali cinesi, no? Sì. Cioè, come i nostri Di maiali tutto il vanno, mondo. sì, di tutto il mondo, però diciamo che è stato colto questo aspetto di turismo sessuale, che tra l'altro, conoscendo le Moso, sono molto Sì, certo. riservate. Quando una società del genere entra in contatto, In in collisione, non può entrare in collisione, contatto. certo, in collisione, è vero, il termine esatto è collisione, con una società come la nostra è chiaramente devastante. Sì, ma cioè, questo ci dà, tra l'altro sta succedendo adesso, perché cosa succede? Tutti i fattori di una società matriarcale che comunque hanno resistito molto a lungo, ma sono anche molto lente, nel senso che Certo. non hanno i cambiamenti che oggi c'è Che l'iPhone 3 abbiamo noi, sì. e sei in un altro mondo. Loro, è come l'impressione che si ha incominciando a studiare queste società, è come se un tempo ci fosse la propensione a guardare più ai danni di quello che si sta facendo che ai vantaggi. Ho Cioè, capito. vabbè, come dire, invento, che ne so, internet adesso che è demonizzato, che stanno Cioè, succedendo ci tutte si quelle pone il cose. problema prima dei Dei danni che può danni, fare? non c'è la pubblicità per la novità, nel senso che Certo. e poi si usano e c'è una ritualità per inserire queste innovazioni, ci sono tutte delle figure che vanno studiate, eccetera. Comunque c'è una particolare attenzione, anche rituale, della collettività verso l'innovazione. In genere si potrebbe ricordare come il trickster della nostra mitologia, cioè quell'essere di solito maschile, perché la propulsione a cercare delle strade nuove, forse anche più maschile del rischio, e le femmine invece hanno più motivi per andare sul sicuro, che è quello del trickster, cioè che è quella figura, un semidio, che ti porta il fuoco e ti fa venire l'incendio, però puoi anche cuocere. Quelle Certo, quindi. Certo, innovazioni è una figura a doppia valenza. sì, È il dio ambigua e ingannatore, ambivalente, ambiguo ambigua e e ambivalente. ambivalente, ma anche positiva se la tua pratica rituale sa ti permette gestirla. di gestirla bene ed è un po' il progresso, questo, il loro progresso. Bene, facciamo una pausa, ci sentiamo fra pochissimo. Allora, ciao di nuovo, siamo di nuovo in diretta con Luisa Vicinelli, e finora abbiamo parlato delle società matriarcali, del suo percorso di avvicinamento al matriarcato, e adesso ci interesserebbe sapere i rapporti, cioè o comunque che cosa significa per lei femminismo e matriarcato, che cosa, i rapporti che esistono, possono esistere, che ci sono, che lei pensa che siano, che tu pensi che siano importanti tra femminismo e matriarcato. Allora, intanto una domanda che mi sono fatta a volte era se, soprattutto all'inizio, se io come femminista purtroppo, di questo secolo potevo riuscire a capire una società matriarcale. Perché mi ero, diciamo, fossilizzata sul discorso del tempo che passa e delle cose che sono successe e anche di una connotazione del maschile come nemico che nelle società matriarcali non c'è. Per cui c'era tutto il maschile come nemico, la rinuncia a un individualismo esasperato, che per me vuol dire libertà, l'economia del dono, che è un altro aspetto che serve per la ridistribuzione, per l'armonia, cioè fondante per le società matriarcali, che magari ne parleremo poi. E quindi dicevo, no, va bene, allora ho trovato queste cose che possono ispirare una società nuova, però sono in un altro tempo, intanto la difficoltà a capirle, perché in un altro tempo no, io non sono una donna che è nata in un'atmosfera matriarcale e ho delle cose. Un po' abbiamo incominciato a fare anche questo lavoro, io di per me l'ho fatto anche abbastanza, prendendo delle situazioni. Per esempio, una cosa che mi dava tanto fastidio era che nei miei sogni più audaci, dico, beh, vabbè, si fa il matriarcato, poi vanno a stare meglio anche gli uomini, cioè una cosa che non è che mi, come dire, piacesse tanto, nel senso che dico, sopica, siamo sempre noi Che ci che facciamo ci facciamo carico. carico della felicità di tutti. Poi c'è la società matriarcale, si ripristinano dei ruoli comunque che sono all'interno di una famiglia, come dire, di possibilità che ti vanno a ledere l'individualismo tuo a cui sei attaccata con le unghie e coi denti perché hai dovuto alzare la testa, se no l'individualismo di quell'altro ti sfasciava. E un po' di lavoro in questo senso l'ho fatto, per esempio prendiamo il separatismo. Allora dico, pensavo, dico, nelle società matriarcali una cosa che per me è un piacere erotico, che è il separatismo, dove mi trovo bene, mi diverto, eccetera, magari mi tocca di nuovo dover trattare anche per le cose importanti, perché comunque non è che la matriarca decide, qui decido io, te non ti voglio neanche vedere, cioè c'è tutto un discorso di democrazia con Di la pratica del confronto, consenso, sì. cioè tu sei molto in contatto con tutti i membri di questa famiglia, certo, allargata. E dicevo, mi perdo il separatismo, ma non è così, nel senso che le donne nelle società matriarcali hanno molti spazi che non chiamano separatisti, dove però sono fra donne, hanno una componente rituale, hanno le loro feste di passaggio dell'età delle ragazze che sono molto più importanti come feste di quelle dell'adolescenza maschile, e queste cose che organizzano insieme, queste decisioni, queste riflessioni che sono intorno effettivamente a un focolare, sono delle forme di separatismo. Andando poi a studiare altre società, comunque il discorso di questa commistione esasperata che noi abbiamo visto come liberazione, perché una volta in chiesa gli uomini a destra era non mi ricordo le donne, le donne già piazzate bene a sinistra, ecco. E poi no, perché questo vuol dire rimarcare la differenza, invece noi vogliamo anche noi questo e quell'altro. Lì da loro non è proprio così, nel senso che non ha un'importanza fondante per la società il rapporto maschio e femmina in questi termini, quindi non devono per forza complementarsi. Certo, e questo è un, bel passaggio importante, perché sì, uno può tranquillamente, uno o una può tranquillamente decidere di fare delle cose separate. Di solito nelle società che si studiano, sono abbastanza ancestrali, sono nel momento rituale, nel momento della festa, che non è pubblica, cioè le donne comunque si avvicinano molto a quello che è il gineceo iraniano, che le donne sono vessatissime, la loro testimonianza vale la metà di quelle di un uomo, però sono donne che dalle 8 di mattina alle 8 di sera che tornano i mariti, gli uomini non li hanno in mezzo alle scatole, hanno una separazione che perlomeno permette delle elaborazioni fra donne, non hanno come noi il bambino, oggi lo vado a prendere, te domani, tu conosci la maestra, cioè hanno dei mondi che sono separati. Ho capito. E questo è uno sfizio mio, sto adesso studiando, ma vi posso solo accennare quel po' che ho capito. Non era così importante, cioè il fatto che la riproduzione avvenga tra un uomo e una donna in queste società non era così importante, cioè serviva anche il riconoscimento della riproduzione o del comunque la vita che si rinnova, eccetera, serviva più che altro a calmierare gli spiriti, cioè a educare anche gli uomini, a dire guardate, avete fatto questo, che avete messo insomma questa possibilità di riprodursi, eccetera, va bene, va tutto bene, però non c'era, sì, molto spesso le società tribali mangiano separati, hanno interessi separati, cioè, in tante, però quello è già un inizio anche di patriarcato, in altre no, perché è un mondo variegatissimo, si sparge su migliaia, sì, di anni, su continenti, quelle che non conosciamo ancora, però c'è sempre questo discorso che si manifestava negli studi antropologici di un certo tempo, di una certa epoca, e sono riassunti nell'Evoluzione della donna dell'Evelyn Reid, che poi non c'era questo umma, stiamo insieme, mangiamo tutti insieme, cioè certo, fra maschile e femminile, ma avevano degli spazi belli delimitati, quindi il separatismo era abbastanza praticato. Sì, beh, non è un'invenzione nostra femminista, sì, è un'invenzione nostra femminista politica di necessità, però ha radici certo, che si riescono a riconnettere. Poi parlavamo anche dell'individualismo, cioè dire beh va bene, ma io cosa devo fare, diventare una marionetta in un sistema che ho un ruolo, un posto eccetera, e non posso dare adito alle mie profondi, desideri, aspirazioni, eccetera. La riflessione che tra l'altro è venuta fuori anche di recente è che intanto per desiderare devi essere capace, cioè un desiderio libero sembra una cretinata. No, invece, molto è difficile. È difficile, le donne lo sanno bene che siccome tanto non potevano dare sfogo a questi desideri, li hanno anche un po' persi ed è una fatica bestiale in processi di liberazione. Capire che cosa desideri davvero. È vero. Quindi in una società matriarcale dove tanta attenzione di tante persone, uomini e donne, è posta sull'attenzione che tutto quello che succede nel sociale vada bene, può permettersi degli spazi di libertà, e qui consiglio di leggersi il buon Malinowski che l'ha fatto, quello delle isole Trobriand. Cioè lì l'infanzia, quando incomincia bene o male a camminare, adesso credo che siano 5-4 anni, bisogna andarseli a rileggere perché queste informazioni, diciamo, proprio dettagliate non me le ricordo, fanno le bande i bambini, gli adolescenti, cioè vengono su, si autoeducano a vicenda in spazi di libertà esagerati. Quindi si autosperimentano e quindi è molto più probabile che non ci sia nessuno che chieda, ma non riesco a capire come mi sono fatta mettere con quell'uomo, con quella donna, certo. Perché le sperimentano, c'è più libertà sessuale, c'è più libertà un po' di tutto, proprio che ti rafforza quel senso di te in relazione agli altri e a quello che puoi toccare e fare, che intanto ti dà questa dimensione. Il fatto che le società matriarcali non abbiano altro scopo che non quello di mandare avanti una vita che gli è arrivata e che cercano di far andare il meglio possibile senza sperare in paradisi o in glorie, oppure senza compensare delle magagne disumane sociali con dei sogni di potere, delle realizzazioni altre che prendono altre strade, permette anche che ci sia un aiuto per le cose che uno poi dice di volere fare. Adesso prendiamo per esempio il sesso, cioè l'omosessualità o la tendenza verso il femminile, il maschile, le varie scelte sessuali. Non sono mai un dramma in una società matriarcale perché è tutto così, diciamo, rasserenato e niente di simbolico. Non è che se un uomo cambia sesso gli va a cascare il modello, e neanche se una donna. Certo. Perché non c'è questa lotta tra i sessi che dicono che non c'è, che invece c'è e che ha determinato la vittoria di un modello che deve essere preservato a ogni costo. Oppure che quando si aprono degli spazi di libertà si sta ben attenti a che non vadano a ledere il modello comunque unico maschile, che è il significante della nostra società, che non vadano a ledere quel modello lì. Certo, non è così che funziona. Non è così che funziona, per cui se uno ha delle tendenze femminili, c'è anche un video sulla città di Yucatan, dove c'è un altro sistema di permanenza matriarcale che è diventata la patria dei travestiti, degli omosessuali, dei transgender, perché lì è tranquillo, cioè tu ti vesti da donna, va bene, invece di andare a lavorare fuori casa e portare i soldi alla famiglia in quanto maschio, lavori con tua madre, hanno una divisione particolare del lavoro, stai lì e poi se vuoi vivere con una compagna, vivi con una compagna, con un compagno, cioè non hanno, cioè è una struttura così flessibile e indirizzata altro che ci possono rientrare veramente tantissime innovazioni, varianti. Comunque non, cioè, sono non fa un problema. Paura questo discorso, cioè ci sono c'è il maschile e il femminile, che poi uno sia qua uno sia là non è determinante. Un matriarcale dice: mamma, ho inventato la bomba atomica, ecco lì La società Cominciamo incomincia a a dire cosa hai fatto, delizzare le le orecchie, cioè sono altre le cose importanti, sono veramente l'accumulo, l'invasione di modelli altri. Senti, una cosa a questo punto, nel presente e nella nostra società, come vedi il matriarcato? A che cosa può servire l'idea matriarcale in questa società? E siccome avete fatto, so che avete fatto in particolare poco tempo fa, questo agosto, mi pare una Sì. campeggia matriarcale, ma non è stata la prima, ne No, no. avevate fatte altre. Che obiettivo si pone un evento di questo tipo? Allora, sono due domande se ancora separate, perché non è tanto che, cioè, poi aspettiamo che arrivino anche altre a formare meglio questa visione, perché è una visione che non è nuova, però che deve andare su una società che è nuova e su noi che siamo nuove. Il discorso di che cosa può servire una conoscenza di queste società matriarcali a noi qui oggi, E comunque come si può innestare un discorso che matriarcale sono due cose di diverse. diverse? Allora, cosa può servire? Può servire intanto a un ovvio empowerment femminile che ormai non c'è neanche più il discorso, però comunque rimane sempre questo alone che noi non abbiamo inventato niente, che non abbiamo fatto la storia, che eravamo le pazze della tragedia, le furie, Certo. quelle che insomma avevano sempre queste mestruazioni che le portavano ad Fuori azioni di testa. scombinate, e già quello invece incominci a prendere questo empowerment che dici: caspita, però invece la storia è un'altra, cioè ho contribuito moltissimo. Adesso poi ci sono le cose dell'agricoltura, che i cacciatori che non hanno mai sostentato delle comunità, perché non è mai stato così, è sempre stata la raccolta delle donne o l'agricoltura delle donne che ha dato veramente Che ha fatto comunità, insomma. che ha fatto comunità, ma che ha dato sopravvivenza, perché la Certo. caccia era varia eventuale e ha Certo. avuto bisogno di molte cose, perché un cacciatore che va a cacciare non sempre torna a casa, non ha le cioè, ce n'è. E comunque è già stato appurato, quindi questo è il discorso dell'empowerment. Il discorso anche che l'empowerment può prendere direzioni svariate, perché cioè anche il discorso della parità. Il potere è rappresentato dagli uomini. L'empowerment molto facilmente induce le donne a prendere posti, atteggiamenti, visioni maschili, che non sono neanche più obbligate, sono indotte, ma no, non è neanche obbligato, è proprio che non sanno dove attaccarsi per portare modelli diversi, per sgambare nei modelli che invece ricordano questi modelli maschili. Per cui un impoteramento nostro, come dire, sollecita anche la nostra testa. Non arriviamo più con la visione del potere, non guardiamo cosa vuol dire, dov'è. Sappiamo che c'è comunque un altro modo di esercitare autorità, autorevolezza, guida, di avere delle funzioni che non necessariamente ti devono fare diventare un po', come dire, un po' come gli uomini, In e qui parole poverissime. in parole poverissime. Per cui questo è un vantaggio. L'altro vantaggio è anche di analizzare dei modelli economici o anche sociali o anche religiosi che sono in parte stati fatti già dal femminismo, per cui vanno a potenziare le società matriarcali, ma dire sì, avevate ragione. In questa, al di là di Dio Padre, cosa vuol dire la religione, oppure il contratto sessuale della Pacman, cioè ti dicono sì, è proprio avete centrato, come dire, l'analisi della società matriarcale, e ti dà l'ispirazione però anche nella pratica di dov'è effettivamente che puoi agire, cioè hai l'ispirazione, non so, di dire una cosa banalissima: io non faccio più da mangiare perché mi riporta al ruolo di casalinga, sottomessa, serva, eccetera. È un'azione secondaria nell'importanza che la società dà alle azioni, e quindi di rasserenarti un attimo e di trovare degli spazi già dove non c'è un potere riconosciuto sociale, nel senso che c'è il mega stipendio alla casalinga o alla riproduttrice, che non c'è, però tu con altre lì puoi trovare dei momenti di vedere come. Cioè di metterti all'opera e di fare funzionare qualcosa, e di trovare gli spazi tuoi, cioè dire va bene, se devo andare in un lavoro dove devo licenziare della gente perché sono direttrice del personale, eccetera, trovo il momento di vera economia nel dare da mangiare alle amiche, nell'organizzare qualcosa che preveda il cibo in un convegno. Ti cambia una visione, che è quel leggero spostamento che ti fa sbirciare negli orizzonti altri, è questo che dà la società matriarcale. Oppure, mentre proprio stavo studiando la società matriarcale, ho saputo di una mia amica che ha messo in pratica praticamente un sistema di parentela altro. Lei aveva un compagno, è andata a fare non so che cosa all'estero, ha avuto un figlio da rapporti occasionali, una storia breve con quest'altro, ha detto al compagno che aveva il figlio, ha chiesto se voleva comunque che la loro relazione continuasse, e poi è andata a vivere con questa bambina e una sua amica in convivenza studentesca, perché conveniva così. Quindi aveva già questo cercare di applicare dei Di modelli, uscire dai modelli esatto, che sono di quelli codificati, diciamo. codificati. Io, ancora prima di arrivare alle società matriarcali, non so neanche da dove mi era venuto, avevo provato a dire a mia figlia: guarda, ti sei maturata, come si dice, hai preso la maturità, io ho un buon lavoro. Tu hai un'età fertile ideale, vuoi un bambino, cioè primo, vuoi un bambino o non te ne frega niente? Se lo vuoi è il momento per farlo. Ho capito. Perché io adesso ho un lavoro che, da come sto vedendo la situazione, mi va avanti un tot, il bambino cresce, rimane che lo guardi te, un po' lo guardo io, un po' ci sono i miei parenti, eccetera. Comunque è protetto fino all'epoca in cui tu, fatta l'università, che comunque non hai l'obbligo di frequenza, non ti metti troppo, arriva lì verso i 10 anni, che è già molto più gestibile da una donna che lavora. Uno Praticamente è uno sguardo diverso. sguardo proprio diverso, che mia figlia mi ha detto: te sei diventata matta, ma comunque intanto è un messaggio che magari doveva passare prima e non mi è venuto in mente, perché poi viene su con quello che propone il convento. Lei mi ha detto: non c'è l'uomo ideale. Ho detto: guarda, che l'uomo ideale, insomma, intanto bisogna che lo avvistiamo. Dico, e poi comunque è più facile trovarlo quando gli levi la responsabilità diretta dei figli, perché se hai un figlio tuo è più probabile che trovi dei compagni di affinità che di questi innamoramenti romantici che si fanno i figli, insomma. A Però non ha proposito, funzionato. no. Non ha funzionato. Senti, e in questa Ah, campeggia la come campeggia è un organizzi? altro discorso. Allora, la campeggia parte proprio dalla spiritualità femminile, perché noi abbiamo incontrato nel corso delle nostre ricerche e baldorie, perché poi Che un finiva bel ci sempre vogliono anche che è quelle. matriarcale, cioè non possiamo sottrarci. Abbiamo incontrato una donna tedesca che ha fatto dei percorsi di sciamanesimo già in Germania con Lute Schirach, che forse adesso riusciremo anche a tradurre qualcosa, e che ci ha proposto e indirizzato questi incontri esperienziali di sciamanesimo, mettendo bene in chiaro che lei li aveva fatti, che erano, lei lo chiama un campo di ricerca, perché in linea con quello che è una spiritualità matriarcale o comunque della dea, eccetera, c'è un territorio che ti informa su queste cose, cioè la natura è molto importante, c'è un territorio anche. Oltre che un territorio circoscritto, è anche le caratteristiche di un territorio. Quindi lei diceva: io non voglio fare come gli sciamani indiani perché hanno un altro territorio, hanno un'altra storia, hanno un'altra. Vorrei ritrovare le radici dello sciamanesimo qui delle nostre parti, che e noi siamo state le più disastrate da questo punto di vista, perché la caccia alle streghe adesso ce l'hanno anche in Africa, però siamo state le prime ed è stata veramente Drammatica. devastante, devastante. Dice, quindi vorrei provare questo sciamanesimo e proponeva degli esperienziali di questa creazione di campi condivisi fra donne Quindi per è una. separato, sono Sì, esperienze assolutamente separate. separate. Separate assolutamente, anche la campeggia comunque separata. Sì. Quindi siamo partite dietro sua indicazione, che era appunto la nostra sciamana e che comunque non è come dire, una valenza gerarchica, perché non succede così nei rapporti fra donne, neanche in questi dove qualcuno insegna. Certo. E abbiamo incominciato a cercare questi territori che ci erano stati sottratti. Il primo territorio che ci è stato sottratto è il nostro nucleo illeso, cioè noi abbiamo subito ferite, tagli con le nostre relazioni, la relazione con la natura, la relazione col nostro corpo, con la consapevolezza di noi stesse, e quindi le prime cose che da fare sono ripulire proprio questo nucleo illeso. Ci sono, adesso magari non interessa a tutti, però ci sono delle regole di come si fanno queste cose, ed è una. Bisognerebbe provarla, perché poi ognuno la vive giustamente a seconda delle sue inclinazioni, di quello che deve prendere, che deve dare. E comunque è una sorta, secondo me, di mia opinione, è una sorta di autocoscienza veloce in presenza, dove non passi solo da un logos, ma passi da canali energetici, da riconoscimenti vari di posizione tua in confronto a tante cose. Quindi abbiamo incominciato con questo discorso spirituale che sta andando avanti e si organizza di volta in volta, eccetera. Pensate di farne altre comunque? Questi sono le esperienziali con Sufi. La campeggia invece Ah, è un'altra è cosa. un'altra cosa, cioè è una necessità, diciamo, di un luogo, di un posto, di una vita altra, di dinamiche altre, che si fa nel posto che ha trovato la Sophie, che è un posto suo e vive dove sta provando anche lei una convivenza matriarcale, perché il discorso è che bisogna che ce le ricreiamo queste convivenze Certo. matriarcali, e non possono essere di madre in figlia in una società come la nostra, perché intanto cioè, no, non ci sono i presupposti, cioè per forza devono essere donne adulte più forti delle altre, nel senso che non devono avere anche da portarsi dietro. Si è identificato in questa. In questa campeggia cerchiamo di passare un po' di questi principi, insegnandoli, cioè dicendo dove siamo arrivate noi con queste ricerche, prevedendo comunque una convivenza, una tranquillità, una disposizione, una situazione, un separatismo che crei la condizione ottimale perché si incominci a parlare di matriarcato, ma non scevro da alcune cose che si possono già palpare alla campeggia, che può essere le regole di convivenza di tante donne che arrivano, perché comunque sono state, ne abbiamo fatte tre, e più o meno c'è sempre stata una trentina di donne di partecipazione, di più non si potrebbe poi neanche fare No, perché beh, non lo sostiene. non sarebbe sostenibile, cioè Non diventa potremmo con quel difficoltoso. posto lì, Certo. non ci si sta. E sono sempre, diciamo, abbiamo sperimentato che le donne messe, cioè che l'energia femminile che si crea in queste situazioni fa succedere delle cose che poi le analizziamo noi che siamo lì, le viviamo e vai via con con una cosa diversa da quella che è una conferenza dove io, come adesso, parlo per un'ora di fila e vi butto dentro delle informazioni che per me sono chiarissime perché ci studio da 10 anni, ma che all'inizio lo so bene che non erano così chiare. E invece lì vedi anche nelle relazioni come cambiano gli atteggiamenti delle donne, come non scenda anche questa competitività che comunque c'è anche fra donne per dare spazio a qualcosa d'altro che non è un volemo se bene, però che è una anche una, adesso non voglio dire conflitto, però un contrasto più rispettoso, più costruttivo. Succedono tante cose in queste campeggi e tante che non le determiniamo noi, noi certo, diamo soltanto una linea e lo facciamo proprio perché succedano queste cose, perché ci interessa, perché il discorso del fare delle convivenze fra donne, molte donne partono, conservano dei soldi, cioè dobbiamo trovare un posto, comprarlo, eccetera. Invece non è la cosa fondamentale. Certo. Perché? Un po' perché questa esperienza ci fa vedere che bene o male, quando qualcuna si stacca, se c'è il gruppo, che neanche che dà sostegno economico, però che in qualche maniera diciamo fa confluire delle energie, delle forze, qualsiasi cosa lì, va bene l'economia. È più trovare delle donne come dire centrate, perché questo nucleo illeso che ci conquistiamo a sgomitate, cioè la sgomitata ti fa alzare una testa, però è la ricaduta in piedi che è importante, cioè è di starci in piedi. Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo Luisa per questa carrellata sul matriarcato, ci rifletteremo sopra perché sono venute fuori tantissime cose e per chi si avvicina, per quelle che si avvicinano al matriarcato, penso che materiale di riflessione ce ne sia tantissimo e aspettiamo anche le vostre considerazioni, scriveteci quando sentirete questa intervista e fateci sapere cosa ne pensate e se avete domande da fare, e quindi poi ci risentiremo con Luisa e vedremo un attimo come anche riparlarne e rispondervi. Ciao! Ciao a tutti e tutte!